America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bella notizia del giorno, la conoscete: l'America è sotto shock per i 14 morti e 17 feriti a San Bernardino, in California, una località tranquilla, tranquillissima, a 100 chilometri a est di Los Angeles. C'era una festa natalizia, una festa che si trasforma in una strage, nella strage più grave in America dopo quella di Sandy Hook, una scuola dove furono uccise 20 persone, tra cui molti bambini. Qui la situazione a San Bernardino è diversa: siamo nel locale adiacente a un istituto per l'educazione dei disabili, c'è appunto un party natalizio organizzato da una divisione statale per i controlli sanitari. Uno dei partecipanti ha una discussione con altre persone al party, se ne va bruscamente e torna accompagnato e armato. Poi la strage. Si parla di 2 o 3 assassini, di certo un uomo e una donna sparano, scappano quasi subito, la polizia li trova qualche ora dopo in una casa poco lontano, scappano di nuovo su un SUV, parte un inseguimento, i due nel SUV, l'uomo e la donna che hanno sparato al party, marito e moglie, vengono uccise dalle forze dell'ordine, una terza persona viene arrestata ma potrebbe essere estranea agli eventi. Uno dei due uccisi si chiama Syed Farouk, 28 anni, è nato in America ma è di origine pakistana. La donna, sua moglie, si chiama Tashfin Malik, ha 27 anni, i nomi e le origini diventano i primi indizi, non è il gesto di un folle o un atto di terrorismo interno come si pensava all'inizio, forse un attacco di matrice estremista islamica. Scopriamo che i due attentatori uccisi hanno una figlia, pensate, una figlia di 6 mesi che avevano dato alla nonna dicendo dobbiamo andare dal dottore, poi sono andati a fare questa strage. Syed è un impiegato sanitario statale. Terrorismo coordinato? Beh, non sappiamo. I due indossavano tute da combattimento nere ed erano armati fino ai denti. Altri dicono che invece si tratta di una semplice vendetta. La situazione è convulsa, i resoconti della polizia sono ancora confusi, le investigazioni procedono con grande cautela per capire se si tratta di una possibile azione coordinata di terrorismo, ci sono altri rischi possibili o no. Esponenti della comunità islamica tengono quasi subito una conferenza stampa, spiegano che l'Islam non c'entra nulla in questi gesti inconsulti, partecipa anche un prete anglicano, si invocano calma e unità. Ma insomma, io qui non voglio stare troppo sulla cronaca, la vicenda è in evoluzione, un'altra vicenda drammatica, un altro shock in questo caso per gli Stati Uniti, ma dopo quello che è successo a Parigi è uno shock naturalmente per tutti noi. Seguiremo sui giornali radio gli sviluppi dell'inchiesta dell'FBI e quelli delle forze della polizia. In realtà qui in America si propone una sfida ancora più grande: che fare con il porto d'armi, i fucili AK-47, le munizioni, le pistole che erano state tutte comprate legalmente da questi due in dei negozi locali, sono un segnale di allarme, un ulteriore segnale d'allarme. Sentiamo Barack Obama che parla prima che si conoscano molti dei dettagli e si concentra sulla necessità di limitare le vendite di armi. We have a pattern now of mass shootings in this country that has no parallel anywhere else in the world. And there are some steps we could take, not to eliminate every one of these mass shootings, but to improve the odds that they don't happen as frequently. Ecco, il presidente, che tra l'altro ha fatto questa dichiarazione in un'intervista alla CBS, quindi era un'intervista già programmata, devo dire aveva un tono quasi rassegnato, era molto, molto giù, molto seccato, e ha detto: sembra ormai quasi che abbiamo accettato questo tipo di incidenti, però questo non può diventare un fatto di normalità, dobbiamo prendere delle misure urgenti bipartisan per garantire la sicurezza degli americani e rendere le sparatorie di massa rare, rarissime, invece che come se fossero un fatto normale. Poi Obama ha continuato, perché naturalmente il problema è un problema che riguarda anche il rischio di attacchi da parte di terroristi stranieri, a terroristi estremisti islamici, e quindi Obama ha cercato di rassicurare: abbiamo una no-fly list per persone che non possono salire sugli aerei, però quelle stesse persone possono entrare in un negozio e acquistare un'arma da fuoco. Questa legge deve essere cambiata, insiste il presidente. A deadly shooting spree in Colorado Springs. Ecco, vediamo cosa è successo però nel 2015, perché è stato davvero un anno di sangue in America. Lo sparatorio di San Bernardino è stato stata la seconda della giornata, figuratevi. La terza da Colorado Springs della settimana scorsa, quando un uomo, Robert Deere, aveva ucciso 3 persone e aveva ferite altre 9 all'interno di un centro per il controllo delle nascite. Un centro del Planned Parenthood. Ecco, quella sparatoria aveva destato enorme, enorme sensazione in tutti gli Stati Uniti. Ma i dati che preoccupano sono i dati complessivi, perché qui la gente spara come se niente fosse. Avevo già dato qualche dato qualche settimana fa, qualche mese fa. Pensate che siamo al 355esimo episodio di sparatoria pubblica dall'inizio di gennaio. Vi ho dato notizia qualche tempo fa di quella sparatoria che c'è stata fra i bikers, Hell Angels, i motociclisti, che c'erano due gang diverse che si sono incontrate, è partita una sparatoria da Far West, anche lì decine di morti e feriti. Secondo Reddy, le sparatorie del 2015 avrebbero già superato quelle del 2014. L'anno scorso ci sono state in tutto l'anno 336 sparatorie, nel 2013 365, insomma stiamo parlando di una sparatoria al giorno. Queste cifre tra l'altro le ha collezionate il Washington Post. Ma sentiamo un audio di una delle sparatorie più tragiche, più avvilenti che si è avuta negli Stati Uniti. This day when a searing tragedy struck in a place parents felt their children were safe. The worst grade school shooting in US history, at least 27 dead, 20 children, 7 adults, including the principal. Ecco, questa di San Bernardino, sparatoria di massa con il maggior numero di morti da quella di Newton in Connecticut, quando il 14 dicembre 2012, lo avete sentito nell'audio, Adam Lanza entrò nella scuola elementare Sandy Hook e uccise 27 persone, 20 delle quali erano dei bambini. Ecco, ma andiamo a qualche altro dato complessivo. Gli omicidi compiuti con armi da fuoco nel 2013, che poi è l'ultimo dato disponibile, in America sono stati 11.208, questo contando solo gli omicidi intenzionali. Complessivamente le armi da fuoco sono responsabili per la morte di oltre 33.000 persone negli Stati Uniti ogni anno, e il 2015 potrebbe essere un anno record di violenza. Ci sono state, pensate, 39.449 incidenti che hanno coinvolto armi da fuoco, 9.940 morti, 550 bambini, 1.962 teenager. Ecco, devo dire, noi ci preoccupiamo degli attacchi terroristici che arrivano da fanatici, da estremisti che cercano di destabilizzarci, ma insomma il vero problema, il vero morbo in questo momento negli Stati Uniti a casa, io mi auguro che questa cosa possa essere affrontata con serietà, con delle riforme vere. Tutti i candidati più o meno ne hanno parlato, hanno espresso condoglianze per le vittime, però i duri, Donald Trump, Jeb Bush, Ben Carson, si sono guardati bene dal dire che è importante introdurre dei controlli. Anche questo sarà un forte tema nelle elezioni americane del 2016. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, quello che è successo ieri a San Bernardino, quello che è successo nei giorni precedenti, insomma, sono atti, per me sono atti di follia. Quando la gente prende una pistola e spara per strada, è certifiable, come si dice da queste parti. Sono matti, sono da rinchiudere. Dunque, di Gary Jules, come canzone del giorno vi propongo Mad World, un mondo di pazzi. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever. To take when people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Daniel York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.